Componimento quindicesimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Il sogno. Era il mattino e tra le chiuse imposte per lo balcone insinuava il sole nella mia cieca stanza il primo albore. Quando, in sul tempo che più leve il sonno e più suave le pupille ad ombra, stettemi al lato e riguardommi in viso il simulacro di colei che amore prima insegnommi e poi lasciommi in pianto. Morta non mi parea, ma trista, e quale degli infelici è la sembianza. Al capo appressommi la destra e sospirando «Vivi?» mi disse, «e ricordanza alcuna serbi di noi?» Donde risposi e come vieni, o cara beltà, quanto dee, quanto di te mi dolse e duol, né mi credea che risaper tu lo dovessi, e questo facea più sconsolato il dolor mio. Ma sei tu per lasciarmi un'altra volta? Io no gran tema, or dimmi, e che t'avvenne? Sei tu quella di prima? E che ti strugge internamente? Oblivione ingombra i tuoi pensieri e gli avviluppa il sonno, disse colei. Son morta e mi vedesti l'ultima volta or son più lune. Immensa doglia m'oppresse a queste voci il petto. Ella seguì. Nel fior degli anni estinta, quand'è il viver più dolce, e pria che il core certo si renda, com'è tutta indarno l'umana speme. A desiar colei che d'ogni affanno il tragge a poco andare, l'egro mortal, ma sconsolata arriva la morte ai giovanetti, e duro è il fato di quella speme che sotterra è spenta. Vano è saper quel che natura sconde agli inesperti della vita, e molto all'immatura sapienza il cieco dolor prevale. Oh sfortunata, oh cara, taci, taci, diss'io, che tu mi schianti con questi detti il cor. Dunque sei morta, oh mia diletta, ed io son vivo, ed era pur fisso in ciel che quei sudori estremi cotesta cara e tenerella salma provar dovesse, a me restasse intera questa misera spoglia. Oh, quante volte in ripensar che più non vivi, e mai non avverrà ch'io ti ritrovi al mondo, creder non posso. Ai, ai, che cosa è questa che morte s'addimanda? Oggi per prova intenderlo potessi, e il capo inerme agli atroci del fato odi sottrarre. Giovane son, ma si consuma e perde la giovanezza mia come vecchiezza, la qual pavento, eppur me lunge assai. Ma poco da vecchiezza si discorda il fior dell'età mia. Nascemmo al pianto, disse, ambedue. Felicità non rise al viver nostro, e dilettossi il cielo dei nostri affanni. Or, se di pianto il ciglio soggiunsi, e di pallor velato il viso, per la tua dipartita, e se d'angoscia porto gravido il cor, dimmi, d'amore favilla alcuna, o di pietà, giammai verso il misero amante il cor t'assalse mentre vivesti. Io, disperando allora, e sperando traea le notti e i giorni, oggi nel vano dubitar si stanca la mente mia, che se una volta sola dolor ti strinse di mia negra vita, non mel celar, ti prego, e mi soccorra la rimembranza, or che il futuro è tolto ai nostri giorni. E quella ti conforta, o sventurato, io di pietà de avara non ti fui mentre vissi, ed or non sono, che fui misera anch'io. Non far querela di questa infelicissima fanciulla. Per le sventure nostre e per l'amore che mi strugge, esclamai, per lo diletto nome di giovanezza e la perduta speme dei nostri dì, concedi, o cara, che la tua destra io tocchi. Ed ella, in atto soave e tristo, la porgeva. Or, mentre di baci la ricopro e, d'affannosa dolcezza palpitando, all'anelante seno la stringo, di sudore il volto, fervea il petto, nelle fauci stava la voce, al guardo traballava il giorno, quando colei teneramente affissi gli occhi negli occhi miei, già scordi, o caro, disse, che di beltà son fatta ignuda, e tu d'amore, o sfortunato, indarno ti scaldi e fremi, or finalmente addio. Nostre misere menti e nostre salme son disgiunte in eterno. A me non vivi e mai più non vivrai. Già ruppe il fato la fe che mi giurasti. Allor, d'angoscia, gridar volendo e spasimando e pregne di sconsolato pianto le pupille, dal sonno mi disciolsi. Ella negli occhi pur mi restava e nell'incerto raggio del sol vederla io mi credeva ancora. Fine del componimento quindicesimo.